as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo sempre qui, noi ad Il Pane e le Rose, la trasmissione degli operai metalmeccanici e non solo. Oggi puntata dedicata, prima parte, perché in realtà abbiamo potuto assistere all'assemblea che si è svolta in Buonfiglio dei Riduttori a Bologna, dove io lavoro, in cui abbiamo invitato il segretario nazionale della FIOM De Palma, e ha fatto un intervento molto lungo, e abbiamo diviso in due puntate. Insomma, nella prima puntata che noi oggi ascolteremo parlerà in generale della situazione dei metalmeccanici in Italia e la situazione anche dell'industria in Italia, della crisi in Italia, di quello che ci sta accadendo come metalmeccanici e come lavoratori in genere in Italia. Poi ci sarà la seconda parte, non perdere, martedì prossimo, in cui si parlerà in maniera specifica del contratto e anche del referendum. Ecco, io molto velocemente, perché non ho tempo, anche le conclusioni le faremo molto veloci, un pezzo bellissimo, e poi subito De Palma, lo ascolteremo, e poi sentiamo le conclusioni, a dopo. Apreta for l'estensa, apreta els punys, infla l'aire els pulmons, s'obre'm els ulls, fes treball el cap, controla el cor, no tanquis mai la boca, crida ben fort, deixa't anar, dona't tot tu. Serà blava i tranquil·la la mar, serà verda i espessa la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries, floriran cors i crits i paraules, en el dia que durarà anys, braços lliures, boques i mans. En el dia que durarà anys, braços lliures, boques i mans. Apreta fort les dents, apreta els punys, infla d'aire els pulmons, s'obre'm els ulls, fes treball el cap, controla el cor, no tanquis mai la boca, crida ben fort, deixa't anar, dona't tot tu, deixa't anar, dona't tot tu. Siamo CGL e stiamo, come sentite dalla voce, siamo impegnati come strutture nazionali tutte di Finfiom e Uilm in una campagna di assemblee di discussione con le lavoratrici e i lavoratori per fare il punto sullo stato dell'andamento della trattativa di Federmeccanica e Assistan, ma anche, sarà il secondo punto che proverò a toccare nella mia relazione, il tema riguardante la campagna che in questo momento la CGL, la FIOM, ma anche la UIL per certi versi, sostiene da un punto di vista referendario. Parto dal primo punto. Il contesto dentro il quale siamo. L'altro giorno abbiamo fatto un'analisi con l'ufficio studi della FIOM e, giusto per darvi l'idea del contesto dentro il quale ci troviamo, questo grafico lo rende in maniera molto chiara, e quella linea che vedete che si innalza non è la linea dell'andamento della produzione industriale del nostro paese. non è neanche la linea dell'andamento, come dire, dell'occupazione, come ci viene raccontato nel nostro paese. È l'andamento invece degli ammortizzatori sociali nel nostro paese. E non in tutte le aziende. Questo grafico è costruito esclusivamente su quello che sta succedendo nell'industria metalmeccanica del nostro paese. Noi siamo passati nel 2022 da 15 milioni di ore di ammortizzatori sociali al 2024, in cui siamo a 21.600.000 ore di cassa integrazione nel nostro paese. Siamo a più di 20 mesi di recessione da un punto di vista del prodotto industriale realizzato all'interno del nostro paese. E in questo contesto, che viene da due elementi fondamentali. Uno è sicuramente il processo di cambiamento che sta avendo l'industria in Europa e nel nostro paese. Due, le crisi geopolitiche che si sono aperte. Tre, c'è l'elemento degli ultimi giorni, che riguarda invece la guerra che si è aperta tra gli Stati Uniti d'America con l'utilizzo dei dazi nei confronti di altri paesi, compresa l'Europa. Vi do un dato per rendervi l'idea. Guardate che se vedete ai numeri del rapporto tra import ed export industriale, metalmeccanico, tra noi e gli Stati Uniti d'America, il secondo paese a cui noi vendiamo prodotti industriali metalmeccanici, come italiani e poi come europei, sono gli Stati Uniti d'America. Leggete in televisione o leggete sui giornali che i dazi non ci sono più. Non è vero. Noi oggi su acciaio e su alluminio abbiamo dazi al 25%. Siccome siamo in Emilia-Romagna, non si dice, ma i dazi per esempio sulle moto sono al 12,5%. Quando vi dico che ci sono i dazi sull'acciaio e sull'alluminio, uno dice, vabbè, a noi non ci interessa. Tanto noi mica facciamo le vergelle o facciamo i coils che prendiamo e li esportiamo negli Stati Uniti. Dovete sapere che in come sono costruiti i dazi americani, qualsiasi prodotto sia fatto di alluminio o di acciaio, ha l'incidenza per la quota parte che riguarda il prezzo di quel determinato prodotto del sopraggiunto elemento del dazio. Quindi vuol dire che tu una cosa che prima compravi ad un determinato prezzo, se la materia prima che utilizzi è l'alluminio o l'acciaio, vuol dire che tu hai un sovrapprezzo del 25%. Questo dato dovrebbe essere il dato intorno al quale la politica tutta, l'Europa tutta, le forze sindacali tutte, le forze industriali tutte, dovrebbero mettersi intorno a un tavolo per affrontare il problema del rischio di deindustrializzazione dell'Europa, che arriva dopo il fatto che già avevamo una situazione di crisi. Perché un imprenditore, quando gli intervistano, gli dicono: ma tu a fronte dei dazi che cosa fai? Semplice, lì mi danno i soldi, c'è il piano IRA, piani dello Stato, ho il dazio, decido di prendere e delocalizzare, rilocalizzare, riorganizzare la mia produzione sulla base del fatto che lì così io supero i dazi e mi danno i soldi per fare gli investimenti. Quindi l'Europa in questo momento, ora vi chiedo scusa se ve la metto in maniera brutale, però è così. Se voi guardate la von der Leyen, andate in televisione che abbiamo bisogno del kit di sopravvivenza di 72 ore in caso di attacco dei russi. Quando ad oggi il problema che noi teniamo è che da quando non arriva più il gas all'Europa dalla Russia, il problema che abbiamo è che una parte consistente dell'inflazione che abbiamo sul metano è determinata dal fatto che ora compriamo il metano a 10 volte tanto dagli Stati Uniti del prezzo che avevamo prima. Quindi il punto oggi per noi è come si fa una politica industriale che cura gli interessi della struttura industriale europea e italiana, che ci consenta di poter avere una sovranità sul futuro della nostra economia. Perché guardate che il contesto in cui siamo è un contesto in cui io sento politici dire la Germania va male, noi andiamo meno male della Germania. Ora, se uno conosce minimamente le filiere produttive in Europa, la cosa che sa è che se io faccio i riduttori e lavoro per il movimento terra piuttosto che la meccanica agricola, il punto è che si fermano quelli che fanno il prodotto finale e non è che tu produci e quei pezzi dove te li montano, perché tu c'hai un sistema di interconnessione industriale nel corso degli anni in cui, vogliamo essere sinceri, nel contesto industriale europeo il problema dell'Italia è che abbiamo perso la produzione di prodotti finiti e facciamo purtroppo, dico io, soltanto parti e componenti in cui siamo bravi a farle. Ma il problema è quando tu hai la titolarità del processo produttivo. Quindi uno degli obiettivi che noi abbiamo posto, quando tutti insieme, Finfium e Wilm, ci siamo radunati e abbiamo fatto una riunione con gli altri sindacati europei, e il 5 di marzo noi siamo andati a Bruxelles tutti insieme per andare a chiedere un investimento straordinario sull'industria europea. Quegli investimenti dovevano servire a salvaguardare la produzione industriale e dall'altro lato agganciare a questa la salvaguardia e la promozione dell'occupazione. Sapete qualche giorno dopo che cosa è successo? Che noi, questi geni che teniamo all'Unione Europea, al posto di prendere i soldi e metterli per un piano per l'industria civile, hanno preso 800 miliardi, 800 miliardi, e hanno detto li mettiamo sul piano di difesa europea, anzi, non sul piano di difesa europea, lo mettiamo sul piano che i singoli paesi europei si riarmano. Guardate che in un contesto di questo tipo, quando noi chiedevamo tutti i sindacati in Europa che si potesse sforare il rapporto tra deficit e PIL per fare le politiche per tenere la sanità, la scuola, l'università, eccetera, eccetera, ci dicevano che eravamo comunisti e non si potevano fare queste cose perché noi eravamo contro la storia, perché è il mercato quello che ti deve dare invece la possibilità di accedere ai beni e ai servizi. Ora invece lo stesso ragionamento lo fanno invece per far investire centinaia di miliardi nella produzione delle armi. Anche qui sfatiamo un mito. La verità che vi racconta, che ci racconta, è che così noi facciamo l'occupazione investendo sul militare. Scusate l'espressione, ma sono tutte cazzate. Perché la maggior parte della spesa europea in armi, come ha spiegato benissimo Trump, servirebbe soltanto ad acquistare armi che sono prodotte da altri paesi, primi fra tutto gli Stati Uniti d'America. E quindi noi dovremmo fare un debito, perché ora capiamoci, quando dici che sfori il rapporto tra deficit e PIL, poi qualcuno deve pagare. Non è che te li danno gratis i soldi. E voi, occhio e croce, chi pensate che li paga poi dopo i debiti che vengono contratti dai singoli paesi per poterli ripagare? In un sistema fiscale come il nostro, in cui se non ci fosse il gettito fiscale dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, non ci sarebbe in questo paese gettito fiscale, perché tu vedi le dichiarazioni dei redditi e scopri che uno che fa l'operaio, uno che fa l'impiegato, prende di più di quanto prende un farmacista, un tassista, addirittura imprenditori. Allora qui c'è il nodo che io vedo e che il sindacato ha visto e che insieme sta provando ad affrontare. Quello che invece vedo nelle nostre controparti è che litigano dalla mattina alla sera, pure nel mondo delle imprese. Noi dovremmo avere in questo momento un confronto, certo anche duro, perché non è che ho le stesse posizioni di Confindustria, e non ho le stesse posizioni di questo o di quell'altra forza politica. Ma il punto è che se tu vuoi affrontare una fase così complicata, o la fai rimettendo al centro il valore e il ruolo politico del sindacato e dei lavoratori, oppure tu da questa situazione ne esci con i morti e con i feriti che vengono scaricati tutti sui lavoratori. Guardate che c'è un uso politico del momento in cui siamo. Cioè ci stanno spiegando che per uscire dalla crisi in cui siamo sono due le leve: la riduzione dell'occupazione e dall'altro lato la riduzione dei salari, che è esattamente il contrario di quello di cui avremmo bisogno. Guardate, recentemente uno che è stato ed è uno con cui noi abbiamo sempre litigato, quando era presidente della Banca Centrale, poi dopo ha fatto pure il presidente del Consiglio, quando noi dicevamo che bisognava aumentare i salari e che il modello industriale europeo, cioè un modello industriale basato sull'export, non reggeva dentro lo scenario globale in cui eravamo, anche in quel caso venivamo tacciati come estremisti. Oggi quelli che ci hanno portati al disastro in cui siamo, perché vorrei ricordare che il suscritto si chiama Mario Draghi ed era quello che firmava la lettera per dire che uno dei problemi dell'Italia era che tenevamo l'articolo 18, le pensioni, i contratti nazionali, provate ad avere memoria, è come se vai a spuntare tutte le cose che sono successe nel corso di questi anni. All'epoca ci scrivevano che li dovevamo far saltare per aria per rendere più competitivo il paese. Risultato è il fatto che invece quello che sta succedendo è che noi stiamo sprofondando da un punto di vista industriale, proprio perché quella era la strada sbagliata su cui sono andati i governi. E infatti la situazione in cui ci troviamo oggi è che addirittura loro cominciano a dire: ah, ma con i bassi salari, ma se tu produci una macchina, io da anni, vi chiedo scusa, ma mi occupo di automotive prima di fare il segretario generale, a Mirafiori, prima tu andavi a lavorare e in tot tempo ti compravi la macchina che producevi. Oggi un operaio di Mirafiori, la macchina che produce, e non sto parlando della Maserati, anche perché non ne produco più praticamente, quindi, ma uno che fa la 500 non è in grado col proprio salario di poter comprare la macchina che produce in stabilimento. Guardate, uno dice, vabbè, fa il sindacalista, è ovvio che ti occupi del salario dei lavoratori. No, è un principio economico. Prima succedeva che, prima del modello Ford, le macchine ce le avevano solo i ricchi. Ford cos'è che si inventò? Mica fece un favore agli operai. Ford fece una cosa semplice, dice: il mercato del lusso l'ho saturato, io mi tengo questi stabilimenti, produco auto, a chi cazzo gliele vendo queste macchine? E gli venne in testa di creare la linea di montaggio che faceva efficienza dal punto di vista produttivo, quindi abbassava il costo del valore dell'auto e allo stesso tempo aumentava, a volte sindacali in cui gli sparavano nei picchetti, ora diciamo noi ci lamentiamo dei nostri, ma all'epoca la situazione era un po' più complicata, gli aumento un pochino i salari e recupero, perché apro il mercato alla classe media che così comincia a comprare le auto e io quello che produco lo vendo. Era un modello di business quello, che puntava comunque al profitto, ma era un modello di business che guardava al fatto che l'operaio potesse a quel punto acquistarsi l'auto. Oggi è esattamente rovesciato. Quali sono i beni e servizi che noi produciamo che possiamo tornare ad acquistare? Per questo addirittura Mario Draghi è costretto a dire che il modello di business in cui producevamo da queste parti, l'assemblaggio finale magari in alcuni casi nel modello tedesco, e poi dopo vendevamo fuori dall'Europa, così tutta la marginalità e il valore ce lo prendevamo noi. Finito, perché c'è un problema. L'inflazione, quando è arrivata la guerra in Ucraina, è arrivata nei due paesi principali europei che avevano una dipendenza di carattere energetico, cioè l'Italia e la Germania. Noi abbiamo un'Europa che non regge di fronte al fatto che non c'è una politica energetica comune del costo dell'energia. Perché se io ho un costo dell'energia diverso, vuol dire che c'è un'inflazione diversa tra i singoli paesi europei. Come fa la stessa moneta a reggere inflazioni a due cifre o a una cifra nello stesso ambito di paesi europei? Quindi il punto è che le elite che ci ha condotto alla situazione in cui siamo, li ha sbagliate tutte nel corso di questi anni. Volete che vi faccia un esempio classico da un punto di vista industriale? Noi abbiamo fatto un seminario recentemente sull'intelligenza artificiale. Noi, l'Europa, sono quelli che hanno una capacità regolatoria dell'intelligenza artificiale la migliore che c'è nel mondo. C'è solo un piccolo dettaglio, che però l'intelligenza artificiale la fanno i cinesi e gli americani. Quindi noi al massimo la regolamentiamo per quella che applicano all'interno del nostro paese. Il problema che noi abbiamo è che se non siamo competitivi sul piano industriale, noi non andiamo da nessuna parte, perché diventiamo un paese che compra beni, servizi, tecnologie, e quindi non è in grado un paese di essere una sorta di, fatemelo dire, cioè sembra che siamo diventati il paese dei B&B, dei camerieri. È un paese che non va da nessuna parte, un paese che ha questo tipo di caratteristica, se non riscopre il valore del lavoro industriale. Ed è per questo che la battaglia che noi facciamo sulle politiche industriali in questo momento ha a che fare con la questione del contratto nazionale del salario. Quello che non stanno capendo le imprese è che ognuna sta guardando al proprio ombelico, quando qua il banco sta saltando per tutti. Ognuno pensa di salvarsi da solo, ma la realtà è che se tu non hai un piano complessivo e non c'è un elemento dialettico, ma di confronto con il sindacato e con i lavoratori, tu rischi di andare a sbattere definitivamente. Ma c'è una differenza. Loro vi dicono sempre, no? Come? Ci dicono sempre, siamo tutti sulla stessa barca. Innanzitutto, io la barca non la tengo, tanto per cominciare. Ma siamo tutti sulla stessa barca, ma c'era una famosa canzone, non so se ve la ricordate. No, non è figa la barca va. La canzone è che la prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza paura e spavento. Il punto è che noi su quella barca là, quando la barca comincia ad affondare, siamo i primi ad andare sotto sopra. E loro comunque, addirittura Elon Musk vuole andare su Marte se salta in aria la Terra, ma molto più banalmente, uno che ha i soldi e vive di rendita anziché di industria, quello che fa è che può benissimo chiudere l'azienda e vivere di rendita. Noi che viviamo del nostro lavoro invece, abbiamo una condizione di vincolo rispetto, ecco perché quando vedete una crisi industriale, sono i lavoratori a difendere gli impianti produttivi industriali e oggi l'unico modo per difenderli è chiedere già da oggi che si facciano gli investimenti per avere la possibilità nel futuro di essere competitivi come sistema, altrimenti ci spiegheranno che l'unico modo per essere competitivi, sapete qual è? Che dobbiamo essere più flessibili, che dobbiamo avere salari più bassi, che non dobbiamo rompere troppo le scatole, perché queste sono le tre condizioni, perché tu quando cominci a competere sul valore basso della produzione, quello che determina è che a un certo punto tu quello, c'è sempre il ragionamento della torta, non so se ve lo ricordate, no? Che quelli dicono, ma noi qual è la fetta della torta? Quella più grande, quella più piccola. Quando tu scomponi il ciclo produttivo, quello che succede è che tu non discuti più della torta. Tu discuti di quanto della fetta ti puoi prendere da un punto di vista salariale. E quindi il termine di proporzione cambia completamente, tanto che ci hanno detto che eravamo in crisi. Ma caspita, ma noi abbiamo fatto uno studio. Nell'anno precedente allo studio che abbiamo fatto, noi abbiamo scoperto che le aziende industriali metalmeccaniche, solo le metalmeccaniche, hanno fatto 30 miliardi di utili. 30 miliardi di utili sono più delle risorse che la Meloni tiene per fare una manovra economica di tutto il nostro paese. Cioè loro hanno avuto utili superiori al bilancio del nostro Stato. E mi spiegano che il problema dell'industria sono i salari delle lavoratrici e dei lavoratori. Una donna. Questa puntata l'abbiamo dedicata musicalmente alla Catalogna, ai compagni rivoluzionari della Catalogna, sia il primo pezzo che il secondo pezzo. Ora, conclusioni. Io penso che c'è da dire poco, anche perché non abbiamo spazio, tempo, però De Palma è stato molto chiaro, è stato molto apprezzato la sua assemblea dei lavoratori. Spero che, ecco perché l'abbiamo voluta dare oggi in radio, la prima parte, la parte generale, l'introduzione al suo intervento in Buonfiglio dei Riduttori. Ricordo a tutti, per chi non avesse potuto ascoltare la puntata, che la troverete in podcast sulla pagina Facebook Il Pane delle Rose. Cosa dire? La situazione che ha descritto De Palma è reale, è stato io penso pochissimo da commentare. Certamente dovremmo trovare una soluzione a quello che dice lui, la soluzione è mobilitarsi anche politicamente oltre che sindacalmente. Lo dico spesso che il sindacato non può risolvere i problemi generali economici di un paese, bisogna sollevarsi, organizzarsi, serve un partito rivoluzionario, serve una mobilitazione di massa che il sindacato insomma fa fatica a realizzare, può farlo, ha delle capacità oggi in Italia, visto che manca in realtà un partito di massa, però chiaramente noi facciamo un'attività politica anche all'interno del sindacato, ma serve che la società si svegli, ecco. Queste sono le mie conclusioni, io vi lascio, alla prossima puntata sentiremo De Palma che ci spiegherà meglio la trattativa del contratto nazionale e anche parleremo anche del referendum con lui, ci racconterà insomma le motivazioni che hanno spinto a indire questo referendum, le motivazioni perché bisogna andare a votare, e votare sì. Alla prossima puntata, ciao! Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Y este